e vedi oltre ogni festa, ci miniere no. Non fermarsi mai. Allora, eccoci qui con una nuova puntata di Corrispondenze Operaie, ore 12.05, lunedì 31 marzo. Ricordiamo che si può sottoscrivere a Radio Onda Rossa al conto corrente postale 61804001, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Voce 56 001 85, Roma. Ora,